lo stivale del rock. Questa settimana, Enrico Capuano. Un saluto a tutti gli ascoltatori, un abbraccio da parte di Enrico Capuano. Enrico Capuano è la Tamuriata Rock, appunto il folk rock italiano dal 1980. Io iniziai in quel periodo facendo qualche canzone mia, qualcosa anche di pop eccetera, però ogni tanto poi introducevamo queste tarantelle in versione rock, che erano poi ispirate tutto sommato alla prima tarantella rock della storia, quella della PFM, Brano e Festa, che è un brano storico. E poi da lì è stata piano piano un'escalation di esperienze che ha portato poi alla maturazione un folk rock sempre più definito, fino ad arrivare dopo 45 anni ad oggi, un genere che mi ha portato fortuna e che ancora oggi, quest'anno per esempio, ha creato tante di quelle occasioni live che dimostrano quanto è ancora viva, nonostante che la situazione musicale italiana sia nel minimo storico per quanto vi riguarda. Nonostante tutto, noi reggiamo la grande da indipendenti fuori dalle multinazionali e con una grande dignità. Questa è poi la nostra piccola esperienza, un'esperienza però che ci ha dato tanti positivi e tante soddisfazioni, e unendo un po' una band di eccezione, ovviamente, perché la qualità è molto importante, e unendo appunto la tradizione, le esperienze della tarantella, del saltarello, delle melodie del nord che sono molto più vicine a quelle atmosfere celtiche, ai canti che sono tanti, diciamo, dell'Italia, a quella che è la dimensione rock che noi abbiamo vissuto, la mia generazione, che passa attraverso chiaramente la musica anni 70, che a me è arrivato tantissimo, anche se sono più piccolo, grazie ai miei fratelli, e poi tutto il periodo che abbiamo vissuto tanti anche nella radio, è stato il periodo degli anni 80, che è stato pieno di fermenti musicali molto interessanti, dal punk, post-punk, new wave eccetera, che in qualche maniera hanno sempre influenzato tutto quello che abbiamo vissuto e fatto. Insomma, c'è sempre un po' di tutto dentro la nostra generazione, che è una generazione che ha vissuto in maniera molto molto centrale la musica, per noi musica e come eravamo in un'unica dimensione. Un abbraccio da parte di Enrico Capuano e la Tamuriata Rock. Ci troverete in tutti i social possibili, TikTok, Facebook, Instagram eccetera, ma soprattutto le date stanno nel sito, che è www.ericocapuano.com. Milano è su, Trieste è su, entraci dentro al sapore gru. Milano è su, Trieste è su, entraci dentro al sapore gru. Enrico Capuano, Milano è sud. Oggi si lavora in nero, e domani un bel mistero, attraverso parchi e mari, bevo sui momenti amari, e ti sembra tutto contro, quando poi ti arriva il conto davvero. Yeah, yeah, yeah. E ci sono abituato, vivo il mondo un po' sballato, pantaloni con bretelle, Jack Sparrow e le sorelle, a rubare caramelle. Chissà. Siamo spiriti bollenti attraverso i continenti che si prendono per mano. Questo mondo gira strano come un film americano. Ma vero. Sapore. Enrico Capuano, Tammuriata Rock. Una pazzia, prendimi madre, portami via, non mi unisca a questo coro, voglio stonare, resterò solo una poesia, senza decoro, come un bracciante, senza lavoro, sono in preda ad un tormento, parlo e non ci sento. Io sono partito, sono arrivato, oppure sono fermo e tutto il mondo se n'è andato, e prendi il coraggio e allarga le braccia, da tutta questa merda non lascerai traccia. Che pazzia, ma non è una malattia, chi ti spaccia prende scienza, questo suono resistenza, tarantella non rallento, con sorriso non mi arrendo, sono in preda ad un tormento, parlo e non ci sento. Sono arrivato, oppure sono fermo e tutto il mondo se n'è andato. E prendi il coraggio e allarga le braccia, da tutta questa merda non lascerai traccia. E non ci sente, esce solo sangue che riscalda tutto quando e riscalda la mia gente, un d'adurto che si accende, tarantella non rallento, con sorriso non mi arrendo, sono in preda ad un tormento, parlo non ci sento e non ci sento. Una pazzia, vivi me mangio, portami via, non mi uccia di sto coro, e missionare si risulta una poesia senza decoro, salvato senza già fatto, sono pigliato nello tormento, parlo e non ci sento. Parlano e non ci sentono. È una vita che stanno a parlare. È una vita che stanno a parlare. A parlare, a parlare. Dentro i loro palazzi a parlare. È una vita che stanno a parlare, è una vita che stanno a parlare. Io sono partito, sono arrivato, oppure sono fermo e tutto il mondo se n'è andato. E prendi il coraggio e allarga le braccia, da tutta questa merda non lascerai traccia. Una pazzia, prendimi madre, portami via, non mi unisco a questo coro, voglio suonare, resterò solo una poesia senza decoro, con un bracciante senza lavoro, sono in preda ad un tormento, parlo e non ci sento. Tristura s'angustia, t'anna po' saluta tua fissor mio, sa intima sposa che tenia. Abbiamo trasmesso lo Stivale del Rock. Questa settimana, Enrico Capuano.